Vi narrerò una sequenza interrotta, controllata da una formula nascosta. Ascoltate attentamente. 0, 2, 6, 12, 20, 30. Qual è il numero mancante che prosegue questa logica?